24, i gialli della storia. Mosca. L'edificio lungo il fiume doveva essere un paradiso comunista. Era una vita rassicurante. La vita nel palazzo era molto piacevole. L'edificio lungo il fiume diventerà l'anticamera della morte. Tutti sapevano che arrivavano di notte ad arrestare qualche sfortunato. Il cuore ci batteva all'impazzata. Erano tutti terrorizzati. Ogni inquilino aspetta il proprio turno per andare all'inferno. 1928, la casa lungo il fiume è un elegante edificio costruito per accogliere l'elite del Partito Comunista Sovietico. Tutti gli appartamenti, centinaia, sono di grande pregio e di ricchi di comodità. La costruzione, inoltre, è a pochi passi dal Cremlino. Ma per molti, in pochi anni, quel palazzo diventerà l'anticamera della morte. Da quelle case, infatti, i dirigenti bolscevichi verranno prelevati di notte e fatti sparire nelle carceri della polizia segreta di Stalin. Oggi a Mix 24 raccontiamo quella storia e quella stagione politica, un giallo con testimonianze inedite, con le rivelazioni dei protagonisti, figli dei dirigenti politici e militari, vittime del terrore staliniano. Mosca, un edificio imponente ed austero sulle rive della Moscova, a poche centinaia di metri dal Cremlino. Somiglia a una stazione ferroviaria o a una caserma militare. All'interno, invece, centinaia di appartamenti. Da quelli a quattro stanze alle semplici mansarde. Molti hanno persino i balconi. Il più lussuoso possiede ampie terrazze con una vista invidiabile sulla città e inoltre tanta luce, spazio e comodità. Sono abitazioni al centro della capitale, in una posizione particolarmente vantaggiosa. Appartamenti molto allettanti per i nuovi russi o più semplicemente per i nuovi ricchi e per gli uomini d'affari occidentali che possono permettersi affitti persino più alti di quelli di Parigi, Londra o New York. È un vero paradosso della storia perché la casa lungo il fiume era stata progettata con una finalità rivoluzionaria: accogliere l'elite socialista dell'Unione Sovietica che in questo luogo poteva trascurare i problemi pratici che potevano ostacolare la missione politica. Si voleva che le forze migliori del comunismo fossero concentrate in un unico edificio. Ma in pochi anni Stalin aveva trasformato quell'utopia in un incubo. Gli abitanti di questo vero e proprio villaggio, gli esponenti migliori e più vivi dell'Unione Sovietica, furono le prime vittime delle epurazioni volute dal successore di Lenin. Anche i genitori di Natalia Rykova sono stati vittime di quell'orrore. Il padre, Alexei Rykov, dopo la morte di Lenin, era stato presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo. Nell'edificio lungo il fiume fu arrestato e condannato a morte. Lo stesso destino toccherà a sua moglie. Mio padre e mia madre sono stati un esempio di dedizione verso gli altri. Fin dall'età di 15 anni mia madre ha dedicato la sua vita alla rivoluzione. Una sorte tragica toccherà anche ai genitori di Irina. Viene a vivere nella casa lungo il fiume a soli 8 anni. Suo padre, l'ammiraglio Muklevich, è uno dei comandanti della flotta sovietica. Tutti sognavano il giorno in cui anche gli operai avrebbero potuto vivere un'esistenza agiata. Mio padre credeva ciecamente in Karl Marx. Ma com'era nata l'idea di quella costruzione? Dopo la morte di Lenin, il governo sovietico trasferisce la capitale da Leningrado a Mosca, considerata il vero cuore della rivoluzione. La casa lungo il fiume è il prototipo di uno schema edilizio apprezzato dal partito. All'interno del palazzo viene realizzato un teatro, il cinema, l'asilo nido e un ristorante con 1000 posti. Quando l'edificio viene inaugurato, gli abitanti del quartiere lo guardano con ammirazione. È la realizzazione di un'utopia. L'idea di base di questo edificio era che ogni lavoratore, ogni residente, potesse tornare dal lavoro e avere accesso ad ogni comodità dentro casa. Non era più necessario uscire. Tutto ciò di cui aveva bisogno era dentro l'edificio. Gli architetti che avevano progettato questo complesso volevano che le donne che vivevano qui fossero sollevate dalle faccende domestiche e, in senso più lato, anche dall'educazione dei loro figli. Erano tutte membri del partito, avevano una carriera davanti. Il loro lavoro veniva prima di ogni altra cosa. Gli abitanti della casa lungo il fiume sono ministri, funzionari di partito, vecchi rivoluzionari. La vita del palazzo è comoda, allegra e contrasta con le difficoltà che vive il resto del paese. Anche se la propaganda del regime propone un'immagine di spensieratezza e normalità, ma la realtà è molto più tragica. La terribile polizia politica, il braccio armato di Stalin, spia i presunti nemici, controllando tutti gli esponenti del partito e incoraggiando la delazione. A Mosca si diffonde un clima di incertezza e di paura, iniziano le denunce, le perquisizioni, gli arresti notturni. Il dissenso ideologico diventa complotto, il sospetto e la certezza della colpa. Ogni individuo ritenuto socialmente pericoloso può essere deportato per 5 anni. È questa, a partire dal 1934, l'implacabile legge di Stalin. L'edificio non aveva un portiere, ma delle guardie, ed erano armate. Quando qualcuno entrava, la guardia gli chiedeva il nome e chi era venuto a trovare. Poi chiamava l'inquilino per informarsi se poteva far salire quel visitatore. Se l'inquilino rispondeva di sì, la guardia lasciava salire l'ospite. Poi annotava sul suo registro che Petrov aveva fatto visita a Ivanov. Segnava anche a che ora Petrov si allontanava. Se si tratteneva a lungo, magari per trascorrere la notte all'interno del palazzo, la guardia lo contattava per dirgli che per rimanere doveva avere un permesso speciale. L'edificio era controllato direttamente dalla polizia segreta. Il direttore del palazzo aveva 2 linee telefoniche, una di servizio e l'altra in comunicazione diretta con il Cremlino. Il turno di controllo copriva l'intera giornata e la notte. La vita nel palazzo era molto piacevole, ma anche esclusiva. Gli inquilini tendevano ad avere rapporti sociali solo nell'ambito del condominio. Stalin ha già condannato molti comunisti con l'accusa di sabotaggio economico. Ma dopo il 1 dicembre del 1934 il regno del terrore si estenderà all'intero paese. Quel giorno Sergei Kirov, membro del Politburo e capo del governo regionale, viene assassinato a Leningrado. Quella sera a Mosca Natalia Rykova è a teatro con il padre. Avevamo ricevuto un invito per la rappresentazione di quella sera. Come sempre avevamo degli ottimi posti in terza o quarta fila. A un tratto si è aperta la porta e un uomo giovane, chinato per non disturbare gli spettatori, ha attraversato il corridoio, dirigendosi rapidamente verso mio padre. Gli ha sussurrato qualcosa in un orecchio. Poi è andato via con la stessa rapidità con cui era arrivato. Non dimenticherò mai la faccia di mio padre. Il suo viso ha assunto un colorito violaceo. Aveva una strana espressione, diversa e preoccupata. Si è chinato verso di me e mi ha detto: «Hanno assassinato Kirov a Leningrado. Stasera è cominciata l'era del terrore». Lo stesso giorno della morte di Kirov, Stalin firma un decreto che accelera i processi dei criminali politici. Comincia così la grande purga dei leader comunisti. Erano tutti terrorizzati. La paura era ovunque. Ognuno aveva le proprie paure, i propri sospetti e i propri nemici. Avere dei nemici reali era indispensabile per sapere che le proprie paure non erano inutili. L'era del terrore, iniziata nel 1934, assume proporzioni sempre più spaventose. Poi, nel 1936, Stalin ordina l'eliminazione di Jagoda. Ora il capo della polizia segreta è Yezhov, soprannominato il nano sanguinario di Stalin, per la sua bassa statura e la ferocia dei suoi metodi. Stalin ha deciso di eliminare un suo potenziale concorrente, Alexei Rykov. Non gli ha mai perdonato di essersi opposto insieme a Bukharin alla collettivizzazione forzata delle terre e alla strage dei Kulaki. Dal 1930 Rykov non ha più la carica di capo del governo, ma continua ad avere un notevole prestigio come ministro delle poste. Mio padre aveva un ottimo senso dell'umorismo e sdrammatizzava. Adesso sono un postino. Ho sempre sognato di fare il postino. Stalin gli tende un tranello, gli affida un viaggio di ispezione per tutto il paese. Dovrà spingersi fino in Siberia. Ovviamente era una trappola. In seguito fu accusato di aver tentato di trovare dei sostenitori proprio durante quel viaggio. Al suo ritorno, Rykov viene inserito nella lista degli avversari da eliminare. Con lui Stalin gioca come il gatto con il topo. Viene accusato di cospirazione. Perde il suo appartamento al Cremlino. Gliene viene assegnato un altro nell'edificio lungo il fiume, con vista sulla sua precedente abitazione, il Cremlino. E i nemici del popolo nella Russia di Stalin sono sempre più numerosi. Alexei Rykov, il delfino di Lenin, subisce con la famiglia un destino che sarà comune a molti altri dirigenti di partito. Sentiamo la testimonianza della figlia. Alcuni fattorini portarono a casa dei grossi fascicoli che contenevano ogni sorta di materiale. Tutto raccapricciante. Contenevano accuse e dichiarazioni che erano state storte sotto tortura. Tra di esse c'erano dichiarazioni di segretari, tassisti, parenti e colleghi. C'era un'infinità di gente e tutti questi documenti erano ammucchiati sulla scrivania di mio padre. Il commento di Stalin è stato: probabilmente in alcune di queste dichiarazioni vi sono delle inesattezze, ma in linea generale le accuse corrispondono a verità. Tornato a casa, mio padre raccontò tutto a mia madre e disse: mi vogliono sbattere in galera. Febbraio 1937, le provocazioni sadiche di Stalin cessano all'improvviso. Rykov viene convocato ad un'assemblea plenaria del Comitato Centrale, durante la quale è messo brutalmente sotto accusa insieme a Bukharin. Entrambi vengono denunciati come cospiratori dell'opposizione di destra. Ho visto mio padre la mattina dell'ultimo giorno. Stava andando a una riunione al Cremlino. Com'era abitudine nella nostra famiglia, si era vestito con un abito elegante, camicia e cravatta. Aveva indossato un completo adatto all'occasione. Poi è uscito, ma è rientrato a casa molto presto. Era inverno ed era ancora giorno. L'ho aiutato a togliersi il cappotto. Si è diretto alla sua scrivania senza dire nemmeno una parola. Gli ho fatto delle domande. Gli ho chiesto: cos'è successo? Sei tornato presto? Com'è andata? Cosa hanno deciso? L'ho bombardato di domande, ma lui non rispondeva. Così sono andata da mia madre, che mi ha detto di telefonare a Poskrebičov. Era il segretario di Stalin. L'ho chiamato e gli ho detto: papà è tornato a casa. Avete ancora bisogno di lui? Non riesco a parlargli. Non risponde alle mie domande. Mi ha risposto che lo avrebbe chiamato se ne avessero avuto ancora bisogno. Qualche ora più tardi, Poskrebičov ha richiamato dicendo: ho mandato una macchina. Mia madre e io non immaginavamo che lo avrebbero arrestato. Ho raccolto i suoi vestiti e sono scesa con lui. Siamo arrivati a piedi fino al ponte e abbiamo visto la macchina avvicinarsi. Era la sua macchina, quella dei rappresentanti del popolo. Lui mi ha stretto la mano e mi ha baciato 3 volte, come si usa in Russia. Poi la macchina si è allontanata. Sono tornata a casa e siamo rimaste in un'attesa piena di angoscia. È suonato il campanello e io sono andata ad aprire la porta. Un gruppo di uomini in divisa ha fatto irruzione nell'appartamento. Erano più di 20. E perquisivano dappertutto. Erano sgarbati e violenti. Hanno buttato a terra tutti i libri miei e quelli di mia madre. Hanno smontato i mobili. Quando li ho visti fare questo gesto, ho urlato come impazzita. Cercate anche sotto le tavole del pavimento. Forse Rykov ha nascosto tutto là sotto. Il popolo sovietico vive mesi terribili. Ogni bravo socialista è chiamato a collaborare e identificare gli avversari del partito. E sempre più spesso i figli denunciano i propri genitori. All'epoca sapevo che avrebbero potuto arrestarmi come tutti gli altri. Avevo paura. Tornare a casa a piedi era così angosciante. E quando rientravo, mi chiudevo dentro. Solo allora mi sentivo al sicuro. Vivevamo nel terrore. Avevamo paura di parlare. Quando avevamo da dire cose importanti, sussurravamo appena. Oppure aprivamo l'acqua in bagno perché il rumore coprisse le nostre voci. C'erano microfoni dappertutto, soprattutto in quell'edificio. Microfoni dappertutto. Tutti evitavano di parlare di problemi politici. Qualsiasi tipo di discussione era pericolosa. Se parlavi con un amico, non potevi mai essere sicuro che non sarebbe andato a riferire le tue parole a qualcuno o che ti avrebbe denunciato. Non potevi fidarti di nessuno. Spesso persino i figli denunciavano i propri genitori. Alcuni facevano finta che tutto fosse normale. Era un meccanismo di autodifesa. Se vivevi in un appartamento ai piani più alti, quando la mattina scendevi le scale, vedevi i sigilli affissi ad alcune porte. Di notte ne era stato messo uno nuovo. Il giorno successivo, un altro ancora. Gli inquilini sapevano che non dovevano fare domande su ciò che stava succedendo e sul perché c'erano quei sigilli. Facevamo finta di non accorgerci di niente. Secondo le stime del KGB e di molti storici, le vittime del terrore staliniano saranno più di 5 milioni. Tutta la vecchia guardia militare bolscevica viene condannata a morte o all'ergastolo. Dei 33 componenti dei vertici del partito ne sopravvivono solo 10. E di questi, uno solo è un ex collaboratore di Lenin, Joseph Stalin. Ma anche i vertici militari cadono vittime del terrore, come l'ammiraglio Mukhlenvich. Lo racconta la figlia Irina. Sono entrata nell'androne. L'uomo che era in servizio mi ha aperto la porta dell'ascensore e mi ha guardato in modo strano. Ci ho fatto caso, ma non ne capivo la ragione. L'ascensore si è fermato al nostro piano. Ho suonato il campanello, pensando tra me e me che mia madre doveva essere a casa, quando ho visto che le luci erano tutte accese. Un soldato mi ha aperto la porta. Era una persona che non avevo mai visto. Gli ho chiesto cosa stesse succedendo. E lui mi ha risposto niente. Poi mi ha detto di sedermi sul divano. Anche la nostra donna delle pulizie era seduta lì. Il tempo passava e a mezzanotte ho chiesto: dov'è mia madre? In quel momento ho sentito qualcuno aprire la porta con la chiave. Ero sicura che fosse mia madre. Forse aveva fatto tardi al lavoro. Sono corsa verso la porta gridando: «Mamma!» Il soldato mi ha scansato da una parte. Ha tolto la catena della porta e sull'uscio ho visto un altro soldato, anch'egli con un berretto azzurro chiaro. In mano aveva il portachiavi di mia madre. Ho subito capito che era stata arrestata. I piccoli orfani vengono portati negli istituti e spesso sono costretti a cambiare nome. È l'autunno del 1937. Stalin ha eliminato tutti i suoi possibili rivali. Ora il potere è completamente nelle sue mani. Stalin può circondarsi di personaggi deboli, ossequiosi, assolutamente intercambiabili. Burattini da manovrare con abilità consumata. Nel marzo del 38 iniziano i grandi processi. Davanti al pubblico ministero Andrei e Vyshinsky sfilano in manette tutti gli uomini più importanti del partito. Sono processi farsa, condotti senza prove e soprattutto senza avvocati. Tutte le confessioni, rivelerà Khrushchev nel 56, sono state estorte con la tortura. Costoro hanno aperto inopinatamente le nostre frontiere al nemico straniero, ma fingono di non essere responsabili di questo crimine. E questi traditori, questi Giuda, che si sono nutriti del pane e dell'immondo denaro del demone capitalista, proclamano il loro patriottismo sovietico. La cosa più incredibile è che tutti gli imputati hanno confessato di aver commesso quei crimini. Senza ribellarsi, senza difendersi in alcun modo, hanno ammesso la loro colpa. Dicevano: sì, sono una spia, un sabotatore. Se qualcuno contraddiceva il pubblico ministero Vyshinsky, gli veniva negato il diritto di parlare. Ovviamente il giorno successivo cambiava atteggiamento. Allora veniva trattato meglio. La sentenza del processo era scontata. Era tutto preparato in anticipo. Era un copione sempre uguale. A Stalin piacevano molto questi processi esemplari. Venerdì 6 marzo del 53, Stalin muore all'età di 74 anni. Il popolo russo piange il suo condottiero, l'eroe della grande guerra patriottica. In quel momento l'Unione Sovietica ancora ignora le cifre dell'orrore. Fino a quel momento, per il popolo, gli unici responsabili del terrore staliniano sono i capi della polizia segreta. E solo con il rapporto Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista nel febbraio del 1956 che tutta la verità verrà finalmente fuori. Ora so che mia madre è stata fucilata a novembre. È stata arrestata a maggio e fucilata a novembre. Ma questo l'ho scoperto solo nel 1956, quando sul suo nome è stato sollevato il segreto. Mio padre è stato fucilato a febbraio. Era stato arrestato a maggio. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.